spera e spera, un uomo arriverà. L'immagine strada nei cortei fra noi, aver paura, piangere, cercare i figli morti per lui. E l'uomo in bianco scese dal cielo, ma era di là dalle barricate. E l'uomo in bianco vide la morte, ma era di là dalle barricate. Santiago! Dare forte, combattere, sacrificarsi per chi crede in lui. E l'uomo in bianco scese dal cielo, ma era di là dalle barricate. E l'uomo in bianco vide la morte, ma era di là dalle barricate. E dittatura e religione fanno l'orgia sul balcone. E religione fanno l'orgia. Santiago del Cile, padre, tuo figlio dov'è? Santiago del Cile.